piazza che, come ci hanno detto poc'anzi, sta diventando una piazza pienissima e soprattutto non sarà solo la piazza di Roma oggi a portare la solidarietà a Roma e a Roma e Napoli, perché insomma ricordiamo che è stato un orrendo buongiorno in molte occupazioni da molti compagni che si occupano dell'emergenza della casa, ma anche a Napoli disoccupati organizzati non sono stati svegliati diversamente, sicuramente poi ci sono tutta una serie di accuse diverse, ma insomma oggi veramente pesantezza, no? Eh sì, buongiorno a tutti e a tutte, siamo qui a Porta Pia sotto la statua del Bersagliere, di fronte naturalmente al quello che era il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero delle Infrastrutture, cioè il Ministero responsabile per quanto riguarda le questioni che riguardano gli investimenti e più in generale la questione abitativa, e anche il luogo in cui si è concluso il grande corteo che era andato sotto il nome di sollevazione, proprio per sollevare la questione della casa, la questione del reddito, la questione dei bisogni, sollevarla come tema dell'agenda pubblica. Intanto quello che vi posso dire è che il piazzale si sta riempiendo, ci sono sempre più problemi di traffico perché la piazza è grande ma non è enorme, c'è un forte presidio di polizia, ma questo era scontato, però sono già diverse centinaia, potremmo dire anche di più, qualche migliaia le persone presenti. La conferenza stampa non è ancora iniziata, naturalmente ci sono le occupazioni, ci sono i compagni, ci sono un po' tutte le persone che hanno risposto a questo primo appello. Stai facendo delle valutazioni in merito alla dinamica del risveglio mattutino, e certo il segnale che viene anche dalla magistratura a Napoli è un segnale che sicuramente risponde a logiche diverse, ma il contesto è lo stesso, stiamo parlando di compagni e compagne disoccupati organizzati che hanno tra le altre cose, oltre a aver battagliato per anni e anni, anche nell'ultimo anno fortissimamente, per il diritto al reddito, sono stati protagonisti nell'ultimo anno anche di molte battaglie portate qui a Roma proprio per snidare, esatto, i responsabili dei finanziamenti mancati e delle mancate politiche, delle mancate risposte al dramma, che è un vero e proprio dramma della mancanza di reddito in Campania, in particolar modo a Napoli, ma insomma in tutta la Campania. Sì, loro sono state proprio vittime di quel circolo vizioso per cui appunto un disoccupato cerca di essere reinserito e diventa un po' l'alibi per tutta una serie di magheggi, no? Sappiamo che la formazione è una dei meglio business nel nostro paese, dalla Comunità Europea, insomma, arrivano tunnel dei sordi. E che tra l'altro le loro denunce fanno sì che, insomma, loro vengono accusati per delle cose che, insomma, di solito dovrebbero essere dei diritti, no? Quindi sì, probabilmente si può dire della formazione quello che si dice anche dei migranti, no? Dei rifugiati politici: se i fondi che vengono stanziati per l'assistenza e la formazione venissero dati direttamente ai disoccupati o agli immigrati per vivere decentemente, probabilmente sarebbero tutti meglio. Questo non significa nulla naturalmente, ma è soltanto per dire che dietro a alcune emergenze, a alcune forme di finte emergenze, c'è spesso e volentieri tutta una dinamica politica di gestione del consenso che cui le briciole arrivano a chi effettivamente sta in uno stato di bisogno. In generale dietro ci sono tutta una serie di interessi. Anche sulla casa tutto questo avviene perché appunto gli appetiti sono grandissimi naturalmente. Credo che la conferenza stampa sia iniziata, io mi sto avvicinando perché anche se la possibilità di ascoltarla sarà un po' complicata perché è una conferenza stampa che viene fatta con un megafono, se ho capito bene. Adesso mi sto avvicinando. Vabbè, vediamo che situazione si mette. Sì, questi sono, adesso vi faccio sentire un po' di interventi di occupanti, semplicemente. Vediamo un po' come si sentono. Io non mi vorrei dilungare tanto perché già gli interventi che mi hanno preceduto hanno raccontato perché oggi siamo qui, quello che rivendichiamo. Stamattina quando mi hanno chiamato e mi sono recato all'occupazione di mio figlio, perché mio figlio Federico Luigi, come lo sentite? È stato tra gli arrestati. Bene, si sente. Io sono un militante dell'Asia, mi ha detto guarda papà mi cerca, non stato qui, io sono andato immediatamente. Comunque Federico ha detto vorrei essere in questo momento qui, vedi, lui vorrebbe essere in questo momento qui a rivendicare il diritto a manifestare, a rivendicare il diritto a resistere, a rivendicare i diritti che ci stanno togliendo, perché tra i capi di imputazione c'è anche quello di adunata sediziosa. questa parola ci evoca i trascorsi del nostro ventennio fascista. Evidentemente ancora nel nostro ordinamento giuridico c'è il fascismo che sta ritornando, perché qua in Italia c'è un processo di repressione, di persone spenta che tende a normalizzare tutto. Qua ci vogliono far vedere che il problema è tra Letta e Renzi. No, il problema è che la gente non ci arriva alla fine del mese, il problema è che la gente non c'ha casa, il problema è che in questo paese non si può manifestare, quando a Londra a pochi metri da Downing Street si può manifestare, a Parigi si può manifestare, qua non bisogna disturbare il manovratore. Beh, noi il manovratore disturbiamo, noi non ci abbiamo paura e vogliamo che tutti i compagni siano liberi immediatamente, perché i delinquenti stanno nei palazzi del potere, perché i delinquenti Berlusconi, i delinquenti Letta, questi sono i delinquenti che dobbiamo cacciare. Tutti liberi, tutte liberi, tutti liberi, tutte liberi, tutte liberi. Ciao a tutti e a tutte, io sono Fulvio del Laboratorio Crash di Bologna. A partire dai percorsi di autonomia e contropotere che attraversano l'Italia e le lotte sociali, da Palermo a Torino, sono qui al fianco dei compagni e delle compagne di Roma, della nostra Roma ribelle, della nostra Roma meticcia, che si è sollevata e promette di sollevarsi ancora. Evidentemente i poteri hanno paura, dopo un'assemblea importante come quella di qualche giorno fa, che ha rilanciato un'agenda di movimento molto determinata e coraggiosa, i poteri hanno iniziato a tremare, allora hanno voluto attaccare dei compagni e delle compagne generosissimi, sempre in prima fila nelle lotte sociali. Io sono qua per portare una solidarietà concreta, non retorica, e parleranno le mobilitazioni già di oggi pomeriggio che attraverseranno tutta Italia, Bologna, Milano, Torino, Palermo, Pisa e tante altre città. Si sono dati già appuntamento nelle piazze dei movimenti per raggiungere la prefettura e tornare a gridare collettivamente insieme i nostri slogan di dignità e anche a far sentire alta la nostra rabbia. Se parlano di adunata sediziosa, noi oggi rispondiamo che ci organizzeremo ancora meglio per organizzare la nostra minaccia. Se parlano di violenza, noi diciamo in maniera chiara ed esplicita che continueremo ad adoperarci per fare in modo che la forza e la rabbia dei poveri si organizzi per rovesciare questa esistente infame. Questa non è retorica, è una promessa, e il 19 ottobre i movimenti hanno reso chiaro e palese che le promesse le mantengono. Liberi tutti e liberi tutte. State ascoltando? Sì, sì, siamo qui. Sì, allora, non so se vogliamo altri interventi, diciamo che come preferite, voi avete il controllo della situazione. Guarda, io adesso volevo con calma leggere il comunicato e poi se vuoi ci risentiamo tra un pochino, non lo so, anche dici te anche gli umori della piazza. Gli interventi, va bene, io la seguo e poi... Va benissimo. Tu che c'hai il polso anche, dacci gli ordini, ecco. Va benissimo. Ok, allora tra poco. Dunque, come avete sentito, Porta Pia è una piazza dove è iniziata la conferenza stampa che era indetta, e sì, come avete sentito dall'intervento il compagno di Bologna, cioè tutta Italia, bene o male, che scende in piazza in solidarietà con i compagni e le compagne che hanno ricevuto questi provvedimenti stamattina, e anche a riconfermare un'emergenza abitativa che credo in tutta Italia solo chi è cieco può non vedere. Noi vi mandiamo un attimino di musica e torniamo tra pochissimo, appunto col comunicato che diceva la conferenza stampa di oggi.